Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Anche oggi vi abbiamo riservato numerose sorprese, a partire dai nuovi dati molto interessanti su numeri e costi dell'espatrio dei nostri giovani professionisti. Prosegue dunque la nostra indagine in materia, che punta a colmare un buco nero nel monitoraggio dell'esodo degli under 40, un buco che le istituzioni non sembrano ancora intenzionate ad affrontare. Ma vi racconteremo pure l'idea tutta natalizia di un giovane immigrato che sta viaggiando per l'Europa con l'obiettivo di incontrare i coetanei sparsi per il continente. Attenzione infine alla storia della settimana. Per la prima volta non vi racconteremo una semplice vicenda di espatrio, ma cominceremo a indagare i programmi e le iniziative che provano a far tornare i nostri talenti in fuga. Negli Stati Uniti i dottorandi, cioè i PhD student, rappresentano un po' l'università nel mondo. In Italia invece sembra che noi siamo soltanto forse una voce di bilancio da tagliare. Marco Di Maggio, 25 anni, è uno studente di PhD nel Dipartimento di Economia del prestigioso MIT di Boston. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura nuovi dati sulla fuga dei cervelli italiani con stime che evidenziano un saldo entrata uscita in netta perdita. Li ha forniti il rettore dell'Università di Torino, Ezio Pellizzetti, lo abbiamo intervistato. Sono 34.000 laureati o dottori di ricerca italiani che escono e 3.300 che entrano. Quindi c'è un gap di 30.000 sostanzialmente. Oltretutto ci sono 200.000 laureati italiani o dottori di ricerca che lavorano all'estero. Lei ha calcolato che la bilancia economica è in perdita di 20 miliardi di euro ogni anno. Anche qui le chiedo, sì, come è arrivato a questo risultato. È stato stimato 600.000 euro per le famiglie e per lo Stato, perché uno deve mantenere sostanzialmente per 25 o 30 anni una persona, e quindi sono praticamente quasi 20 miliardi di euro che escono. Noi garantiamo agli Stati Uniti, agli stati europei importanti, sostanzialmente della manodopera molto qualificata per la ricerca oppure anche per attività professionali. E ora il calcolo realizzato da Giovani Talenti sulla perdita in termini di capitale umano per l'Italia per l'espatrio dei giovani laureati. Utilizzando i dati OCSE sull'istruzione, Giovani Talenti ha stimato un costo di formazione prudenziale di $130.000 per laureato, di cui due ipotesi. La prima, sulla base dei dati Istat sui cambi di residenza 2008, l'investimento in capitale umano perso per l'espatrio ammonterebbe a $851.760.000. Questo costo si moltiplicherebbe però per 5 sulla base della ricerca di Confimpresa Italia, secondo qui 65.000 giovani lasciano ogni anno la penisola, il 70% laureati. In questo caso la perdita ammonterebbe a quasi 6 miliardi. La fuga dei cervelli all'estero sta impoverendo l'Italia, e questa la principale emergenza da affrontare, così l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi. E sul fronte dell'immigrazione le notizie non sono consolanti. In Italia il flusso migratorio costituito da laureati provenienti dai paesi dell'est Europa è rilevante, ma la percentuale di coloro che svolgono professioni intellettuali è molto bassa. Un caso di spreco di cervelli, lo denuncia il CNR. L'Italia è fanalino di coda tra i paesi industrializzati per il lavoro giovanile. Nel 2009 il tasso di occupazione nella fascia d'età 15-24 anni era del 21,7% contro la media OCSE al 40,2%. Solo l'Ungheria ha un tasso inferiore. La penisola presenta pure il minor tasso di occupati tra i giovani laureati. Una settimana a Natale, oggi vi parliamo di un'iniziativa molto originale collegata alle festività, nata dall'idea di un giovane espatriato 2 anni fa in Svezia. Si chiama Marco Valente. Da ieri ha intrapreso un viaggio di ritorno a tappe, nel corso del quale incontrerà numerosi italiani che vivono in Europa e in patria e che, come lui, condividono il desiderio di un cambiamento. Sentiamo. L'idea nasce dal fatto che ci sono tantissimi italiani che vivono all'estero e c'è tantissima speranza in un paese migliore e c'è tantissimo potenziale. Quindi l'idea sarebbe quella di connettermi con questi italiani ed avere delle conversazioni molto significative, cosa sogni per l'Italia e quali sono i potenziali che tu vedi presenti. In quanti ti hanno risposto a questo appello e quante tappe farai fino al 23 dicembre? Ci sono almeno 9 tappe che sono già confermate fino al 23 dicembre, ma hanno risposto in tantissimi, almeno una cinquantina di persone in varie città, si tratta di Copenaghen, Bruxelles, Parigi, Grenoble, Torino, Milano. Tu cosa cerchi da questi colloqui? Io vorrei esplorare il senso di speranza, il senso di possibilità nel creare un paese migliore, anche anche connettermi con tante persone che sono dei veri talenti che vivono all'estero. La tua idea è di fare in modo che i talenti espatriati comincino a ragionare e a capire cosa possono fare per il loro paese? In un certo senso sì, secondo me molti lo stanno già facendo. Per me la cosa più interessante è quella di connettermi con queste persone. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una direttore regionale per IDEA, Istituto per la Democrazia e l'Assistenza Elettorale, richiesto un postdoc in scienze politiche o legge, lavorerà nel sud-est asiatico, scadenza per i CV 16 gennaio, info su idea.int. Un accounting manager allo European Patent Office di Monaco di Baviera, richiesta la laurea in Business Administration, scadenza per i CV 7 gennaio, info su epo.org. E infine è aperta la selezione per quasi 300 posti di assistente di lingua italiana all'estero, lavoreranno in Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Gran Bretagna e Spagna, info su istruzione.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Boston, East Coast degli Stati Uniti, città da molti considerata come la più europea tra i centri abitati americani. Oggi vi spalanchiamo le porte di un prestigiosissimo ateneo d'oltreoceano. Nome: Marco. Cognome: Di Maggio. Età: 25. Città di origine: San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Studi: laurea in analisi economica alla Federico II di Napoli. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? Chicago e poi Boston. Perché? Completare i miei studi con un dottorato all'estero. Quale lavoro svolge attualmente? Sto completando il terzo anno di dottorato in economia. Dove? All'MIT di Boston. Tornerai? Forse tra 10 anni. I'm shipping up to Boston, Dropkick Murphys, canzone di punk celtico divenuta un cult nello sport cittadino. Oggi a Giovani Talenti torniamo dunque a parlare non solo di università e dei numerosi problemi che affliggono il nostro mondo accademico, ma cominciamo a presentare anche le iniziative, e non sono poche, che cercano di costruire ponti tra l'Italia e il resto del mondo, prendendo alcuni dei nostri migliori talenti, finanziando la loro specializzazione all'estero e provando anche a farli rientrare. Do quindi il benvenuto a Gian Antonio Deroni, segretario generale di Unicredit and Universities. Buon pomeriggio. Ciao Sergio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Invito fin d'ora a segnalare a Giovani Talenti @radio24.it programmi e finanziamenti destinati ai nostri talenti all'estero, talenti che, come Marco Di Maggio, si trovano attualmente, per esempio, negli Stati Uniti. E non in una università a caso, ma al prestigioso MIT, dove può succedere un giorno qualsiasi di incrociare un premio Nobel come Peter Diamond nei corridoi dell'Ateneo, oppure si può integrare la propria esperienza accademica a Wall Street, ma soprattutto è possibile prendere anche un caffè e fare quattro chiacchiere informali con professori di rango internazionale. Oltreoceano la chiamano open door, fantascienza, oppure più semplicemente, non è forse così, che dovrebbe essere l'università in un paese normale, Marco? Sì, certo, assolutamente. Non vedevo l'ora di incontrare questa esperienza. Marco, iniziamo a parlare della tua carriera. Ti iscrivi all'Università di Napoli, laurea triennale in analisi economica. Perché questa scelta? Speravo in potessi offrire un'interessante chiave di lettura per interpretare la realtà. Ed infatti è stato così. Capire gli incentivi che spingono le persone a prendere determinate decisioni si è rivelato fondamentale. Ti laurei nel 2006 con una tesi sul mercato del credito. A posteriori, che giudizio dai di quell'esperienza universitaria? Beh, li ricordo anni come anni fondamentali per le decisioni prese in seguito. A posteriori mi rendo conto di quante persone di valore hanno deciso di rimanere in Italia per i motivi più svariati. Certo, pensarci oggi ricordo dei docenti tragicomici, ma c'era anche una ristretta cerchia di persone straordinarie che compensavano. Persone che avevano studiato e lavorato all'estero e cercavano di dare questa stessa possibilità anche ad altri. E se non fossi stato incoraggiato e guidato in quei momenti, probabilmente invece di andare a Chicago avrei completato gli ultimi 2 anni magari in bocconi per poi finire in una banca d'investimento. E invece attualmente sei ancora in università. Subito dopo la laurea vieni accettato alla prestigiosa Northwestern University di Chicago in qualità di visiting scholar. Perché questa scelta, ma soprattutto come ci arrivi? Per selezione? Sì, praticamente mi trovavo in una situazione particolare, perché oramai avevo approfittato di tutto ciò che l'università poteva offrirmi in termini di offerta formativa. Quindi la scelta era tra andare a fare un master magari all'estero o completare la specialistica altrove. Però io, non lo so, volevo andare negli Stati Uniti ed evitare di spendere magari anche migliaia di euro per un master. Però andare negli Stati Uniti con una laurea triennale non era praticabile, perché gli americani non si erano ancora adeguati alle nostre riforme universitarie. Riuscii però a convincerli a darmi questa possibilità. Praticamente mi misero la prova per un anno. Se avessi resistito, se mi fossi fatto valere, sarei potuto rimanere, altrimenti sarei dovuto tornare a casa. Marco, a Chicago tu segui tutti i corsi il primo anno di PhD in economia e matematica, lo definisci un confronto diretto con una realtà competitiva e stimolante. Com'è da giovanissimi prendere la valigia e lasciare Napoli per l'Illinois? A livello puramente pratico, spieghiamolo. Beh, è stata un'esperienza che mi ha fatto maturare tantissimo, perché i primi tempi sono stati terribili, tra avere il visto, trovare la casa, fare i contratti, acqua, luce, gas, e poi non conoscevo nessuno. nessuno. Però poi alla fine, piano piano, ho conosciuto altri dottorandi e si è creato quel cameratismo di quelle occasioni in cui la vita ti mette alla prova, che ci lega ancora oggi praticamente. Alla fine dell'anno, con una decisione, diciamolo pure, al limite dell'incoscienza, rifiuti la possibilità di entrare al secondo anno di PhD nella stessa università per andare a lavorare come research assistant alla University of Chicago. Contemporaneamente ottieni anche la laurea specialistica a Napoli. Ora sposto un po' il focus e chiamo in causa Gian Antonio Deroni, perché le tue due tesi laurea italiane vincono altrettanti premi, anche se il riconoscimento per te più importante deve ancora arrivare della borsa di studio Giovanna Crivelli della UniCredit and Universities. Allora, Gian Antonio Deroni, ci spiega cos'è questa borsa di studio che ha poi permesso a Marco di andare all'MIT e soprattutto chi vi può partecipare? È una borsa di studio annuale, rinnovabile, riservata agli studenti laureati in economia e finanza con il massimo dei voti, che scelgono, proprio come Marco, di iscriversi a un programma di dottorato all'estero. La borsa Crivelli copre l'intero importo delle tasse universitarie e concede una somma di 25.000 euro all'anno a ogni studente per coprire le spese di vitto e di alloggio. Secondo me si tratta di un'iniziativa che consente ai vincitori di potersi dedicare allo studio assolutamente liberi da qualsiasi altra preoccupazione. E questo è fondamentale. Negli anni quanti giovani avete inviato all'estero per un PhD? In quali settori studio e quali paesi? La borsa Crivelli è giunta quest'anno alla nona edizione, quindi abbiamo 17 studenti all'estero, 3 saranno i vincitori dell'edizione attuale, quindi andremo a 20 studenti. I settori di studio sono praticamente economia e finanza e i paesi target di questi ragazzi sono Stati Uniti, Regno Unito e oggi abbiamo anche una ragazza in Svezia. E torniamo a Marco Di Maggio. Con la borsa, appunto, prosegui i tuoi studi all'MIT in qualità di PhD in economia, un punto di partenza importante sul quale costruire il mio futuro con uno straordinario entusiasmo, lo definisci. Allora, raccontaci com'è stato l'impatto con questo tempio dell'Accademia Mondiale. È stato emozionantissimo. All'inizio ero quasi sopraffatto dall'imponenza culturale, intellettuale di questo veramente tempio accademico, ma poi è diventato tutto più familiare. Marco, in Italia i ricercatori vanno in piazza per reclamare i loro diritti, negli Stati Uniti invece ci hai raccontato in una email c'è un calciomercato dei cervelli, è proprio un mondo completamente diverso, raccontacelo. Sì, perché ogni anno quando noi facciamo le domande per l'ammissione ai dottorati, in risposta agli Atenei ci offrono la possibilità di andare a visitare i campus, è lì che si apre praticamente un calciomercato dei cervelli, nel senso che tutti gli Atenei vogliono semplicemente selezionare i migliori studenti e quindi fanno offerte sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista magari di altri benefici, tutti per convincere i migliori studenti ad andare nelle proprie università. E questo perché negli Stati Uniti i PhD student rappresentano un po' l'università nel mondo, sono come l'ultimo modello della Prius per la Toyota. In Italia invece sembra che noi siamo soltanto forse una voce di bilancio da tagliare. Questa è una bella differenza. Restiamo in Italia, tu denunci come da noi si sia perso anche il senso del ridicolo quando i bandi e i concorsi non vengono manco affissi in bacheca, perché sono ad personam, altro che calciomercato, e quando i professori qui galleggiano a 10 centimetri da terra, mentre negli Stati Uniti ti invitano, lo dicevi prima, a prendere un caffè. Ma allora, questi baroni nostrani, pieni di sé e provinciali, si sono mai misurati con una competizione vera in grado di accertarne le reali capacità? E se lo facessero, ti lancio questa provocazione, che succederebbe? Beh, se i baroni nostrani avessero simili esperienze all'estero, forse sentirebbero le risate fino a qui. E poi, forse solo un grande boato, capito? Il boato di quel muro che crolla, il muro che impedisce alle eccellenze di emergere. Perché la prima cosa che impari quando vai all'estero in realtà è il senso del limite, cioè quello che loro dicono flying down, cioè capire che per quanti sforzi tu possa fare, in realtà anche tu hai un limite, e quindi impari ad essere umile, che è quello che manca in molte delle nostre università. E questo è fondamentale. Marco, in breve, ma molto in breve, cosa pensi della riforma dell'università italiana che tante polemiche sta scatenando? Beh, non si può, diciamo, riformare l'università italiana senza una coerenza di impianto. Per esempio, non si può introdurre il numero chiuso senza abrogare il valore legale della laurea. Non si possono innalzare le tasse senza allo stesso modo innalzare i fondi per le borse di studio. Non si può introdurre un sistema per la valutazione della ricerca senza aver messo tutti nelle stesse condizioni di farla. Non si può equiparare istituti di ricerca privati al CEPU. Marco, in previsione di questa trasmissione hai condotto un sondaggio tra alcuni colleghi italiani emigrati su cosa dovrebbe cambiare nel nostro paese per indurli a tornare. Cosa è emerso? Perché mi interessa davvero molto. Tutti ci ritroviamo nella stessa difficoltà, nel senso che tornare in Italia adesso significherebbe partecipare a un concorso da ricercatore, quindi ricominciare tutto da zero, sperando poi in uno stipendio che è un terzo di quello che oggi percepiamo come dottorandi. E poi anche il mercato del lavoro che è diverso. In Italia manca la fiducia che se io sto seguendo le regole lo facciano anche gli altri. Molti di noi in realtà vedono nella creazione di un'agenzia governativa come la National Science Foundation che sta negli Stati Uniti, con a capo magari eccellenze internazionali, un modo per far emergere le eccellenze italiane. Marco, domanda di diritto, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Io darei la libertà all'università di determinare le tasse universitarie, ma al tempo stesso stanziare dei fondi per delle borse di studio che possono dare la possibilità di un'educazione universitaria a chiunque. E poi fornirei all'università un budget annuale per le assunzioni. Però queste assunzioni devono essere riviste ogni 3 anni e poi quando si parla di riforma dell'università si dà uno sguardo alla classe dirigente del nostro paese, con un Parlamento con meno laureati di quelli che ce ne fossero nel 1930, la domanda è ragionevole aspettarsi una riforma da loro? Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marco Di Maggio, 25 anni e PhD al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Marco vi è arrivato dopo una laurea economica all'Università di Napoli, un punto di partenza che lo ha portato a intraprendere una straordinaria, seppur ancora giovane, carriera negli atenei americani, prima a Chicago, poi a Boston, sempre a contatto con le punte di eccellenza degli analisti economici statunitensi. Questa puntata ci dà soprattutto l'occasione di parlare dei programmi che aiutano i nostri giovani talenti dell'università, coloro che vogliamo vedere presto in cattedra al posto di tanti baroni vecchio stampo e fuori mercato, a formarsi all'estero e poi possibilmente tornare. Marco si trova infatti a Boston grazie a una borsa di studio e qui con noi c'è Emilio Calvano, che dagli Stati Uniti è tornato nel 2009 grazie a una borsa di ricerca Crivelli. Emilio è stato ricercatore postdoc ad Harvard, ha lavorato anche presso Microsoft Research a Boston e tra le sue esperienze anche 3 anni in Francia e 1 in Svezia per conseguire il grado di Docteur du Troisième Cycle, l'equivalente di un PhD americano. Emilio, tu sei approdato nel tuo ritorno all'Università Bocconi di Milano come docente a contratto, allora raccontaci in breve la tua storia e la tua esperienza, soprattutto perché hai scelto di tornare. Prima volevo collegarmi a quello che ha detto Marco Di Maggio sul calciomercato in Italia. Io adesso lavoro in Bocconi e in Bocconi quest'anno abbiamo ricevuto ben 400 application dai migliori studenti americani per una posizione di docenza, quindi in qualche modo anche da noi c'è il calciomercato. C'è da dire che è vero che in Italia sono pochissimi i centri di eccellenza che riescono in qualche modo essere attrattivi, però c'è anche da dire che l'Italia ha una dimensione che pari a quella della California, quindi avere più di 1, 2 o 3 centri di ricerca è fisiologicamente impossibile. La mia esperienza è stata un'esperienza di studi in Europa e di ricerca anche negli Stati Uniti, all'Università di Harvard. Una volta arrivato su questo calciomercato, ho deciso per motivi personali di proseguire la mia carriera in Europa e sono andato nei migliori centri di Europa a fare dei colloqui di lavoro. Poi ho scelto di tornare in Italia perché penso che la ricerca che si possa fare a Milano Bocconi sia la stessa ricerca che si può fare a Parigi, si può fare a Londra, si può fare a Stoccolma, si può fare a Madrid. Gian Antonio Deroni, il programma UniCredit and Universities propone borse di ricerca che permettono a un giovane che ha completato il proprio dottorato di rientrare. Quanti siete riusciti a riportarne in patria e con quali risultati finora sono poi rimasti? Per UniCredit and Universities l'esperienza delle borse di ricerca è abbastanza recente, comunque più recente di quella delle borse di studio. Finora abbiamo riportato in Italia 3 ricercatori, mentre il vincitore della borsa di quest'anno si chiama Mirko Tonin, attualmente insegna a Southampton nel Regno Unito e grazie alla borsa di ricerca vinta con UniCredit potrà proseguire la sua attività di ricerca all'estero, nel caso concreto a Budapest in Ungheria. Ora, il tema della miglior formula per convincere i nostri ricercatori al termine della borsa di ricerca di rimanere in Italia o in Europa è chiaro che per noi è un tema fondamentale. Ed è proprio, diciamo, nell'impegno di trovare iniziative capaci di trattenere i nostri ricercatori che quest'anno abbiamo bandito un concorso nuovo, il Postdoc Research Grant, con lo scopo di incentivare i migliori ricercatori italiani a proseguire le loro attività di ricerca in Italia. E devo dire che alla prima edizione di questo concorso hanno partecipato ben 53 ricercatori. In una battuta, l'Istituto per la Competitività ha stimato in 4 miliardi di euro la ricchezza prodotta dai nostri scienziati e cervelli fuoriusciti dall'Italia. A suo parere esiste un problema tutto italiano di sistema inadeguato nel finanziamento della ricerca, cui fa da contraltare per paradosso un'elevatissima qualità dei nostri cervelli. Sulla base delle mie esperienze in UniCredit e in Universities, non posso affermare l'esistenza di un problema tutto italiano di sistema inadeguato. Di sicuro posso però affermare che esiste un flusso consistente di studenti non solo europei, ma provenienti anche da tutti gli altri continenti, che si dirige sistematicamente verso le migliori università americane. Generalmente, gli studenti italiani sanno affermarsi anche ai massimi livelli nelle università dove decidono di andare a studiare e sono tra gli studenti più apprezzati. Non solo, spesso quando andiamo a incontrare i responsabili dei corsi più prestigiosi di economia e finanza presso le migliori università del mondo, troviamo professori italiani che occupano posizioni di altissimo prestigio. E questo è un dato che fa riflettere. Emilio, cosa pensano negli Stati Uniti e del nostro brain drain? Si fregano le mani vedendo arrivare tanto capitale umano? Beh, diciamo che siamo molto contenti. C'è anche da dire che, come diceva Gian Antonio, il problema non è solo italiano, ma più o meno di tutti i paesi del G8. Negli ultimi giorni è scoppiato un violentissimo dibattito sul New York Times sul problema del brain drain, poiché è uscito in Francia un rapporto che segnala come anche la stessa Francia ha dei problemi fortissimi a trattenere i propri cervelli. Ma diciamo che non c'è niente di male, a noi fa piacere, a me fa piacere adesso mandare i miei studenti a studiare negli Stati Uniti. Il problema non è tanto quello di mandarli, il problema è quello di recuperarli. E lo diciamo sempre, il problema non è che escono, il problema è che puoi farli rientrare, certo. E questo in tutte le professioni, non solo in quelle universitarie. Tutte le professioni. È lì il vero problema in qualche modo, esatto. Italiano, perché si allarga un po' a tutte le categorie. In una battuta, Emilio, quali sono i tuoi progetti? Resterai? Il mio progetto è continuare a fare ricerca. Per fare ricerca bisogna talvolta anche muoversi, ma al momento penso di essere in condizione qui a Milano di fare la stessa ricerca che fanno all'MIT di Boston o a Londra. In bocca al lupo, grazie Emilio Calvano, grazie a Gian Antonio Deroni. E per chiudere, domanda di rito a Marco Di Maggio: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Sicuramente quella dell'espatrio all'estero forse è la scelta migliore, ma è anche la più difficile, perché a volte è difficile lasciare tutto, lasciare le proprie certezze, anche se sono poche, però a volte è più facile aggrapparsi a queste piuttosto che lanciarsi nel vuoto. È più difficile rifiutare i compromessi che ci vengono offerti tutti i giorni per la nostra realizzazione, e non è facile mettersi alla prova, però ci sono dei momenti in cui bisogna puntare tutto su se stessi, perché è in quel momento che si può veramente fare un salto di qualità. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi restiamo negli Stati Uniti per parlarvi di un'importante associazione che oltreoceano riunisce i nostri più importanti MBA. Filippo Scognamiglio, segretario di Nova, ci spiega cos'è questa associazione. Nova è l'associazione dei MBA italiani che hanno fatto questo programma di studi Master in Business Administration negli Stati Uniti d'America. Nasce circa 10 anni fa, ha circa un migliaio di membri iscritti e vede tra 50 e 100 membri aggiungersi ogni anno, che sono il numero di studenti che vengono a fare MBA negli Stati Uniti. Il vostro obiettivo dichiarato è promuovere la partecipazione di studenti italiani a programmi di MBA negli Stati Uniti. Spiegaci perché è così importante, spiegaci anche un po' qual è l'interesse finora dimostrato. I programmi di studi in business nelle università americane sono generalmente considerati tra i migliori nel mondo, se non in assoluto i migliori al mondo. In Italia c'è carenza di talento manageriale, e questa penso sia una cosa abbastanza riconosciuta a livello nazionale. Avere persone che vengono a formarsi negli Stati Uniti dovrebbe avere un valore significativo per l'intero sistema paese, in quanto poi sono competenze che idealmente tornano indietro. Infatti l'obiettivo di Nova è duplice: uno è incentivare le persone a venire a studiare negli Stati Uniti business, e il secondo è di incentivare a tornare in Italia o dopo gli studi o a medio termine. E si riesce a farle tornare? È una bella domanda, non sempre è facile. Studiare negli Stati Uniti è decisamente più caro, un programma di MBA può costare fino a $120,000, però ci sono anche molti programmi che aiutano gli studenti da un punto di vista finanziario. Quasi tutti, o comunque una percentuale molto significativa delle persone che vengono qui a studiare, vengono o con sponsorizzazioni aziendali o con borse di studio forniti da vari enti. Il fatto è che però molte persone non lo sanno, per cui pensano: venire a studiare negli Stati Uniti mi costa un sacco di soldi, non so se poi troverò lavoro, devo sospendere, diciamo, la mia carriera per 2 anni. Quindi c'è grande incertezza. Una volta che sono qua si trovano spesso offerte di lavoro a salari molto molto più alti rispetto a quelli italiani, e quelli che non hanno avuto sponsorizzazioni o non hanno avuto borse di studi si trovano anche con una serie di debiti da ripagare, e quindi è difficile farli entrare subito. A lungo termine lì è un po' diverso, perché lì entrano in gioco considerazioni di carattere nazionale. Chi arriva negli Stati Uniti a 25 o 30 anni difficilmente sarà mai completamente americano. Siamo italiani e in fondo la nostalgia di casa prima o poi si fa sentire quasi per tutti. Ma in termini di sistema paese invece notate un interesse a prendere i migliori, anche chi ha una formazione ad alto livello negli Stati Uniti? Sì e no. Ci sono alcune nicchie, possiamo dire così, di eccellenza, ma sono poche. Sono alcuni gruppi nelle grandi imprese multinazionali italiane, e purtroppo l'Italia non ne ha molte. Quello che non esiste, a differenza dell'America, è una valorizzazione più diffusa di questo titolo, dove non solo nicchie d'eccellenza, ma un intero sistema manageriale basato su figure professionali di questo tipo. Quali sono le attività principali di Nova? Nova organizza una conferenza annuale che vede 200-300 persone partecipare ogni anno, conferenza che mette assieme studenti che stanno attualmente facendo MBA negli Stati Uniti, ex alunni di queste università e recruiter tutti assieme per appunto parlare di lavoro, di prospettive, di opportunità. Per maggiori informazioni potete cliccare su nova-mba.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Oggi vi leggiamo un estratto della lettera che potete trovare questa settimana sul blog ufficiale della trasmissione. L'ha inviata a giovanitalenti@radio24.it Antonio, uno studente italiano di medicina all'Università di Timisoara in Romania. Questo è il finale della missiva, il cui testo integrale potete trovare nel blog. Non credo di tornare in Italia a breve termine, a dire il vero nemmeno a lungo termine, scrive Antonio. In tutta Europa le porte sembrano essere aperte, ma in Italia no. Non avendo frequentato medicina nel nostro paese, all'atto pratico mi è preclusa ogni possibilità di frequentare scuole di specializzazione in Italia, ma di questo non mi rammarico, anche perché, essendo orientato verso una specialità chirurgica, l'Italia è forse uno dei posti peggiori per formarsi se non si hanno le conoscenze giuste. Questa però è un'altra storia, o forse la stessa storia. Così Antonio. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Il sistema di reclutamento all'interno delle università italiane favorisce la fuga di cervelli di potenziali giovani docenti o ricercatori? Programmi mirati di borse di ricerca e borse di studio che finanzino i giovani talenti su base capillare possono aiutare a tamponare l'esodo? E come sviluppare anche qui un calciomercato dei cervelli? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è ormai attiva Matching, la prima piattaforma online per avviare partner tra i giovani professionisti residenti all'estero e i coetanei rimasti in Italia. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo, giorno di Natale, sempre alle 15 su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.